Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a luglio del 1800. Bonaparte torna in Italia, vince a Marengo e riconquista il nord. Il cardinale Chiaramonti, eletto papa, l'arrivo a Roma tra i festeggiamenti. Lo scienziato italiano Volta scopre come produrre elettricità. Grande successo a Vienna per la prima sinfonia del giovane Beethoven. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Ha valicato le Alpi in un solo giorno a dorso di mulo, è arrivato in Italia e ha di fatto scacciato gli austriaci dal nord del paese. Il ritorno di Bonaparte in Europa si è fatto sentire a Parigi, dove ha assunto il potere, ma anche in Italia, dove è tornato al ruolo che gli è più congeniale di conquistatore. E quello che sentite è l'audio raccolto sul campo di battaglia dal lato francese a Spinetta Marengo, nell'Alessandrino, dove si è svolta appunto la battaglia decisiva. Una battaglia che ha consolidato la leggenda di Bonaparte, ma nella quale ha perso uno degli uomini più fidati, il generale Desaix. L'esercito francese è anche tornato a Milano, riconquistandola, riprendendo poi il controllo di Genova e Torino. Riunito a Venezia, il conclave ha eletto papa il vescovo di Imola, Barnaba Chiaramonti, che ha deciso di assumere il nome di Pio VII in diretta continuità con il suo predecessore. A differenza di Pio VI, però, sembra che il nuovo pontefice sia di idee più aperte, visto che sostiene la possibilità di conciliare Vangelo e democrazia. Viva Pio VII! E quella che sentite è l'accoglienza che gli è stata riservata al suo rientro a Roma dal popolo e dalla nobiltà capitolina. Sembra che tra l'altro stia trattando un nuovo concordato con Bonaparte. Già vincitore qualche anno fa del più prestigioso riconoscimento scientifico, la medaglia Copley della Royal Society di Londra, il fisico italiano Alessandro Volta ha trovato un modo per produrre energia elettrica. Riprendendo gli studi di un altro italiano, Luigi Galvani, ha alternato in una struttura di legno a forma di colonna strati di rame, zinco e di un panno imbevuto di una sostanza acida. Collegandovi due fili di rame è riuscito a farvi transitare l'elettricità. Ha chiamato la sua invenzione organo elettrico artificiale. Ma il nome popolare, vista la forma, è diventato pila. È stata accolta come un grande successo a Vienna l'esecuzione della prima sinfonia composta da un giovane tedesco, Ludwig van Beethoven. Discepolo di Joseph Haydn, ha incantato la capitale dell'impero, tra l'altro con un handicap notevole, una malattia sconosciuta gli sta facendo progressivamente perdere l'udito. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta, e da Paolo Piacenza. Sul nostro sito www.radio24.it, oltre a riascoltare la versione audio, potete anche scaricarne una versione da leggere volendo stampare. Se volete scriverci, non avete penna e calamaio, l'indirizzo email è sempre gazzettino@radio24.it.